Siamo con Andrea Cota, uno dei curatori della seconda edizione dell'Aniene Festival a Parco Nomentano a Roma dal 4 luglio al 5 agosto. Andrea, ben trovato. Ciao, ben trovato a te e insomma, un saluto a tutti gli ascoltatori. Raccontaci un po', intanto per chi non lo conoscesse, come è nato e quali caratteristiche ha questo festival? Ah, il festival è nato l'anno scorso, siamo alla seconda edizione, è nato da un'idea folle di un gruppo di amici decidendo di fare un festival gratuito, entrata gratuita per la cittadinanza, insomma per gli abitanti del quartiere del Nomentano Montesacro, ma poi chiaramente aperto a tutti sotto le stelle, si sta in un parco, nel parco del Ponte Nomentano. La protagonista del festival è una pista da ballo, un bel quadratone di legno dove ospitiamo le migliori scuole del swing, di hip hop romano, ma non solo, anche il samba del collettivo Dobrigo, del Forró, dei Bastiao, un gruppo che viene dal Brasile, ci farà sentire questa musica, questo ballo del nord-est brasiliano. Abbiamo anche i balli popolari, la pizzica e la insomma, tarante fatte da Andrea De Siena, un giovanissimo ma molto bravo danzatore di questo genere che ci porta il Mobo Duo. Insomma, un sacco di musica, un sacco di, in qualche modo, occasioni per stare insieme. Quindi soprattutto musica e ballo. Però Non so, insomma, solo. so che tu hai certo anche al riguardo, scusate il gioco di parole, siccome insomma sono 33 serate, a me piace parlare di 33 giri e di pista di questo festival, abbiamo voluto insomma dare spazio a tutte le arti performative, quindi si fa anche un pochino di teatro, so insomma che è la tua grande passione e un occhio di riguardo per l'improvvisazione teatrale, di cui siamo appassionati, e anche un paio di altri spettacoli, insomma sicuramente tanti spettacoli dal vivo. E poi, vabbè, pomeriggio ci stanno anche altre attività, in collaborazione col MAM Festival, attività per i bimbi, quindi anche abbastanza family friendly il festival, mentre noi ci sorseggiamo magari e facciamo due chiacchiere, i bimbi possono stare con le animatrici, ci stanno varie attività, dalle cose proprio insomma culturali, letture nel parco o corsi di fotografia, anche insomma travestimenti e cose per i più piccini. Considerato che sono 33 giorni, Andrea, ti chiedo se gli orari da che ora si va a che ora si finisce e se sono tutti i giorni. Tutti i giorni, a partire da domani fino al 5 agosto, tendenzialmente intorno alle 5, alle 6 di pomeriggio cominciano le prime cose, poi ci sta anche la possibilità di mangiare qui con i ragazzi di Soul Kitchen, la cucina dell'anima, un ristorante di San Lorenzo, qualcuno forse lo conoscerà, attento ai prodotti insomma genuini, loro sono salentini, quindi troverete sicuramente delle ricette del sud, del Salento, ma non solo, c'è il bar che te lo dico a fare, il nostro collante sociale e poi si finisce intorno alle 2, l'una, alle 2, dipende un po' dalle, sai, dalle serate, magari il fine settimana andiamo un po' più avanti. Chiaramente siamo all'aperto in un parco, per cui la situazione è difficilissima, però dobbiamo anche rispettare un pochettino insomma, tutte l'anime del quartiere. Senti, oltre alle cose a cui accennavi, ci sono appuntamenti che volevi segnalarci in particolare? Oh, oddio, guarda, io ho curato più di tutte la programmazione musicale dei concerti che non sono solo quelli dello swing, dove ospitiamo delle grandi big band fino a 19 elementi. Però appunto io sono un po' più su la musica altra, tra virgolette. Sicuramente sono molto contento domani di aprire con Davide Shorty, che è un ragazzo con una voce soul pazzesca, tra l'hip hop, il soul e il cantautorato. Consiglio anche questo venerdì i Mon, una formazione indie rock romana, giovani, molto onirici, rarefatti, ma con degli sprazzi di hardcore, un po' alla The Drive-In, questa è un po' la mia sensazione, e, insomma forti, molto, molto bravi. Dopodiché c'è la Takadu Orchestra il 13, venerdì quello dopo, che ci porterà nei suoni del Medio Oriente, del Nord Africa, una musica che vuole abbattere i confini, insomma, che in questo periodo invece vengono innalzati più che mai. Sì. Il 18, un'altra cosa che voglio consigliare, i Tech Noir, un duo che si sta facendo notare molto nei festival, insomma, in giro per l'Italia, ma anche in Europa, e portano in avanti il discorso della black music, un po' una sorta di new soul, io la chiamo black music del 3000, quindi un po' un pizzico di elettronica, una voce molto molto interessante, lei di origini nigeriane, ghaniane, e lui di origine greche, però entrambi si sono conosciuti a Genova. Sì, sì. E infine il mio peso specifico da direttore artistico, me lo sono speso sul 27 luglio, giorno in cui verranno dalla Romagna un gruppo di folli musicisti che hanno fatto dell'afrobeat psichedelico la loro missione, o electrocampa come la chiamano, insomma c'è del tropicale, c'è anche un sacco di energia, sono potenti, si vestono come i matti e si chiamano Ponzio Pilates. Benissimo. Allora, ci dai anche i riferimenti web per la programmazione, per saperne di più? Sì, che te lo dico a fare, c'è Faccia Libro e Aniene Festival è la nostra pagina, yes. Instagram per gli amanti dell'estetica, c'è il sito internet per i più vintage, www.anienefestival.it, dove trovate il programma. Voglio ricordarlo perché insomma, è molto importante. L'ingresso è gratuito, è sempre aperto e gratuito tutte le sere. Dal 4 luglio al 5 agosto il parco è di tutti e noi insomma ci siamo presi la briga di organizzare un po' di musica, cultura e intrattenimento a favore insomma, del quartiere e di chiunque voglia passare a trovarci. Seconda edizione dell'Aniene Festival al Parco Nomentano a Roma dal 4 luglio al 5 agosto. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Andrea Cota. Andrea, un abbraccio e a presto. Un grande abbraccio anche a voi, grazie mille. Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Un in bocca al lupo, ciao. Ciao, ciao, ciao.